Mr. Kilowatt. Alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. È iniziato tutto nel 2004 con la mina di una matita e un po' di nastro adesivo, e 6 anni dopo è arrivato il premio Nobel per la fisica. Parliamo della scoperta del grafene, un materiale che promette di rivoluzionare parecchi settori tecnologici e non ultimo naturalmente quello dell'energia. Il grafene è un materiale composto in pratica da un solo strato di atomi di carbonio ed è il materiale più sottile quindi che si possa immaginare. La sua esistenza era già stata prevista parecchi anni fa, ma c'è voluto il colpo di genio di due fisici dell'Università di Manchester per riuscire a produrlo poi realmente. Parliamo di Andrei Geim e Konstantin Novoselov, che sono riusciti nell'impresa con un metodo tra l'altro incredibilmente semplice, cioè strappando praticamente degli strati di grafene dalla mina di una matita che è fatta di grafite e quindi di carbonio puro. Bene, cerchiamo allora di capirci qualcosa di più con l'aiuto di Vittorio Pellegrini, che è dirigente di ricerca del CNR in forza al NEST, il National Enterprise for Nanoscience and Nanotechnology, dell'Istituto di Nanoscienze del CNR di Pisa e della Scuola Normale di Pisa. Buonasera Pellegrini. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. Allora, senta Pellegrini, io me lo immagino così il grafene più o meno, una sorta di pavimento di piastrelle esagonali con un atomo di carbonio in ogni angolo delle piastrelle, in pratica dove 3 piastrelle, diciamo, si toccano. Mi corregga se sbaglio, È un'ottima rappresentazione. Va bene. Allora, che cos'ha di speciale questo grafene? Per esempio, è un ottimo conduttore di elettricità, è un materiale estremamente robusto, infatti è 200 volte più robusto dell'acciaio, e inoltre ha delle ottime proprietà ottiche, per esempio è trasparente alla radiazione visibile, estremamente trasparente, e questo lo rende molto adatto per applicazioni, poi magari ne parleremo in ambito fotovoltaico. Ecco, beh, andiamoci allora su queste applicazioni. Quali sono quelle applicazioni appunto in cui il grafene potrebbe dare una svolta? Ma diciamo, in ambito energetico, quelle che attualmente sembrano più promettenti sono sostanzialmente, appunto, dicevamo, l'applicazione del grafene in ambito fotovoltaico, soprattutto nel campo del fotovoltaico di terza generazione. Il grafene potrebbe trovare un'ottima applicazione andando a costituire uno o i due elettrodi della cellula fotovoltaica. In pratica gli elettroni che verrebbero prodotti dall'assorbimento della luce troverebbero nel piano di grafene un ottimo piano dove poter essere poi trasportati e poi veicolati nel circuito esterno. Cioè c'è una parte in cui si verifica l'effetto fotovoltaico, ma poi la corrente elettrica prodotta deve essere portata via appunto per essere utilizzata, certo. Quindi si potrebbe usare questo grafene spalmato sopra questi pannelli fotovoltaici. Esatto. Tenga conto che adesso questi elettrodi trasparenti vengono fatti con ossido di indio, ma l'indio è un materiale praticamente in estinzione, quindi questa è una problematica estremamente importante, quella degli elettrodi nelle celle fotovoltaiche. E poi? E poi appunto una seconda applicazione estremamente importante è quella nell'ambito delle batterie capacitori, o quelle che vengono chiamate in gergo supercapacitori, ultracapacitori. Praticamente il grafene opportunamente strutturato è in grado di intrappolare una grossa quantità di carica elettrica, e rispetto alle batterie tradizionali il grosso vantaggio è che apparentemente può caricarsi e scaricarsi con tempi estremamente rapidi, addirittura del minuto, e questo sarebbe una rivoluzione in questo ambito. Beh, se pensiamo alle automobili elettriche, uno dei problemi più grossi è che ci mettono ore a caricarsi, scaricarsi, invece qui ci metterebbero un minuto, cioè quanto fare un pieno di benzina, e anche usandola l'auto elettrica avrebbe chissà quale ripresa. Assolutamente, e poi c'è da considerare che il capacitore ha il grafene è un materiale robusto, quindi questi cicli di carica e scarica sono praticamente infiniti, questo è un altro aspetto estremamente importante. E poi infine, ce n'è un'altra, vero? Sì, c'è una terza applicazione nel campo dello stoccaggio dell'idrogeno. Come sappiamo, l'economia basata dell'idrogeno richiede che l'idrogeno venga insomma stoccato in un contenitore. Vi sono varie prospettive, vari studi attuali, ma l'idrogeno, il grafene permetterebbe di immagazzinare alte quantità di idrogeno, perché l'idrogeno si va a attaccare agli atomi di carbonio che costituiscono la maglia del grafene. La cosa interessante è che modificando la struttura locale del grafene, quindi curvando il grafene, quindi diciamo comprimendolo o addirittura espandendolo, si riesce a modulare la capacità degli atomi di carbonio di intrappolare idrogeno, e questo è un meccanismo che apparentemente è molto efficace poter intrappolare e rilasciare idrogeno in modo controllato. Quindi un contenitore che utilizza il grafene come spugna per l'idrogeno sarebbe estremamente efficace da questo punto di vista. Quindi insomma le applicazioni sono veramente incredibili, tra l'altro nel campo dell'elettronica ce ne sono a non finire. Immagino però che oggi non si produca più col nastro adesivo e la matita, vero? Ma ad oggi ci sono numerose tecniche di produzione di grafene su superfici molto ampie che utilizzano una varietà di metodi, da un metodo di riduzione chimica a metodi di crescita cosiddetta epitassiale con delle macchine e tecnologie che sono ben note, e su questo ambito ci sono molti gruppi di ricerca che vedono coinvolti ricercatori italiani sia in Italia che anche all'estero. Quindi non è che siamo lontanissimi dalla possibilità di vederlo applicato concretamente, perché poi spesso queste ricerche, no, si dice è arrivata la rivoluzione e poi ci vogliono 40 anni. No, assolutamente, ci sono paesi nel mondo che sono estremamente vicini a applicazioni, per esempio la Corea del Sud tramite l'azienda Samsung sta sviluppando dei touchscreen al grafene che probabilmente verranno messi in commercio in poco tempo, e le applicazioni sono così prossime che anche la comunità europea ha deciso di esplorare la possibilità di investire su questo materiale con un progetto gigantesco che dovrebbe coinvolgere tutta l'Europa, durare 10 anni e avere un investimento di 1 miliardo di euro. Quindi tra 10 anni potremmo avere una di queste super batterie, per esempio? Questa è una possibilità molto concreta, per esempio negli Stati Uniti delle aziende che sono in procinto di commercializzare i primi prototipi, quindi proprio nel caso delle super batterie forse le tempistiche sono addirittura più rapide. Grazie Vittorio Pellegrini. Prego. Ci fermiamo qui, buon fine settimana, ci sentiamo lunedì.